Procediamo allora per la giornata di domani, sabato 6 luglio, sarà il primo di tre appuntamenti per una rassegna nella rassegna Bonoir, il Salotto Nero di Bologna. È una rassegna tra letteratura, musica e cronaca nera. Saranno i sabati di 6, 13 e 20 luglio, quindi in maniera consecutiva, sempre dalle 21, curata nella cornice di Piazza San Francesco a Bologna, scrittori, giornalisti, esperti e anche i parenti delle vittime si incontrano su questo palcoscenico per ripercorrere le tappe di alcuni casi di cronaca nera che hanno segnato l'Italia. Le parole della letteratura, le immagini del cinema, la musica dal vivo contribuiranno a questa narrazione totale, a far rivivere i sentimenti legati a storie che non possono essere dimenticate, a raccontare in un paese come quello in cui viviamo, che è fitto di vicende e interrogazioni che, come sappiamo bene, attendono ancora risposte. Primo appuntamento e per domani sarà scomparsa il caso Emanuela Orlandi. Intervengono Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, Laura Sgro, legale della famiglia Orlandi dal 2017, e Anna Cherubini, scrittrice e sceneggiatrice. Il narratore Stefano Tura, che appunto ho sentito per quanto riguarda motivo di approfondimento, poi generale per tutti gli appuntamenti della rassegna. La regia per Giostra Film di Riccardo Marchesini, il reading e musica di Selene De Maria. Iniziamo allora con uno sguardo generale per Bonoir, grazie alla disponibilità del regista Riccardo Marchesini, che apre questi motivi di conversazione a proposito di Bologna Estate, Piazza San Francesco. Siamo in procinto della partenza di Bonoir, siamo con il regista di Giostra Film Riccardo Marchesini, al quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Di che si tratta questi motivi di incontro, che è già intuibile dal nome, però nel dettaglio come è nato e possiamo in due parole farne un approfondimento? Allora, Bonoir è nato nel 2006 ed è una rassegna dedicata alla cronaca e alla letteratura nera. Nel corso di questi appuntamenti vengono scelti alcuni casi di cronaca che hanno segnato particolarmente il nostro paese e vengono raccontati non semplicemente invitando degli ospiti, non sono solo dei dibattiti, delle tavole rotonde, ma sono degli appuntamenti proprio costruiti a tavolino con una sceneggiatura in cui si intersecano, oltre al racconto, anche una parte teatrale con attori, attrici e una parte musicale, e poi l'inserimento di tutta una serie di video che possono provenire dal cinema, dalla televisione o anche immagini fotografiche che ci aiutano ad affrontare questo racconto e anche a capire come queste vicende di cronaca nera sono state raccontate dall'arte nel corso del tempo. Si parte ufficialmente? Si parte il 6 luglio alle 21 in Piazza San Francesco con Scomparsa, il caso Emanuela Orlandi, con la partecipazione di Pietro Orlandi, il fratello che da tantissimi anni si batte per arrivare a una verità e per ritrovare la sorella. Ci sarà anche appunto l'avvocato della famiglia, Anna Cherubini, che è una scrittrice che aveva conosciuto Emanuela in giovanissima età, e poi si continua con il caso di Yara Gambirasio il 13 luglio, che è un caso insomma molto interessante anche per come e per la partecipazione che, e il ruolo che hanno avuto le indagini scientifiche, e poi concludiamo con il massacro del Circeo, una vicenda lontana nel tempo, purtroppo sempre così attuale. È un caso che ha fatto poi da apripista a tutta una serie di dibattiti e di situazioni che sono venute poi successivamente. Tanto bello quanto dispettoso questo disco, lo sapevo che mi avrebbe tradito, ma l'ho voluto portare lo stesso, dico sai mai, perché questo brano di Metamatics, vediamo se ha ripreso un po' il suo percorso. Viva il vinile! Invece purtroppo poi quando sono i CD belli bisogna portarli, no? Meno male, no? Metamatics per me è colonna sonora che si può abbinare, anche se ha motivi di elettronica ambient, per Bonoir, il Salotto Nero di Bologna, sabato 6, 13 e 20 luglio, si inizia domani, piazza San Francesco alle ore 21 con Scomparsa. Grazie alla produzione John Strafilm, ricordo che è veramente completo tra narrazione, letteratura, immagine, testimonianza per quello che è stato il caso Emanuela Orlandi. Sarà domani alle ore 21, piazza San Francesco. La curatela, lo ribadisco, onore al merito, è di Ert. E la nostra città come diventa palcoscenico di tutto ciò? Allora, la nostra città diventa palcoscenico di tutto ciò intanto con una grandissima partecipazione, nel senso che Bologna è una città intanto segnata da molta cronaca, quindi per forza di cose empatica verso certe vicende. E poi devo dire che comunque c'è sempre stata grande attenzione nei confronti di questa manifestazione. L'estate scorsa Bonoir è stato l'evento più seguito in piazza San Francesco e quindi il pubblico è molto attento, molto partecipe, molto vicino ai protagonisti che ci vengono a trovare, quindi come sempre Bologna si rivela una città con una marcia in più anche nell'ascoltare, nell'affrontare questa tipologia di racconti. C'è anche un aspetto letterario in tutto ciò. Sì, c'è un aspetto letterario perché noir perché sul palcoscenico salgono appunto sia degli scrittori che dei giornalisti, scrittori che a volte hanno affrontato queste vicende proprio dal punto di vista letterario, quindi rianalizzandole, riproponendole alla loro maniera. E poi appunto c'è la presenza di, in questo caso sono tre attrici quest'anno, tre attrici che accompagnate da musicisti leggono alcune pagine che possono essere appunto queste pagine letterarie, ma sono anche pagine di documenti legati a questa vicenda, possono essere atti processuali, possono essere lettere che comunque vanno ad integrarsi nel racconto, diventano parte del racconto e quindi di questa, diciamo, di questa forma di spettacolo, se così si può dire, che noi mettiamo in scena in piazza San Francesco. Grazie Riccardo. Grazie. Di Metamatics porta il titolo di Great Sunflower, il grande girasole. Thank you. Ambient Norken Soul, questo brano mi sta cadendo la cartella stampa dall'emozione. Static Bureau. Tra la minimal techno, l'ambient, questi suoni, questi riverberi. Con un altro protagonista dopo la regia, tra l'altro, di Giostra Film, portata da Riccardo Marchesini. Concludiamo con chi invece sul palcoscenico, giornalista, scrittore, in questo caso, come preciserà lo stesso Stefano Tura, non solamente per quanto riguarda lo script, ricordo anche altra protagonista, Grazia Verasani, e poi per gli appuntamenti in seguito daremo voce, approfondimento anche per quanto riguarda il 13 e il 20 luglio. Ci soffermiamo su questo inizio dopo le linee generali di Bonoir e procediamo, come vi ho detto, in conclusione con Stefano Tura, che sarà, per quanto riguarda Bonoir, lui giornalista, scrittore e non solo. Ma io non è che voglio vantarmi, per carità, io sono anche uno degli autori, non faccio solo il moderatore, sono anche il narratore. È il secondo anno di questa iniziativa che riprende una vecchia rassegna che si faceva anni fa, grazie a Verasani e Rick Marchesini sono gli altri autori. È molto importante secondo me perché è un occhio diverso sui fatti di cronaca che magari ci siamo, non dico dimenticati, ma sui quali pensiamo di avere già saputo tutto, conosciuto tutto, mentre noi cerchiamo di dargli un taglio che possa non solamente rivedere alcuni angoli non esplorati, ma trovare anche delle nuove verità, e lo facciamo pubblicamente in una piazza, dando la possibilità alla gente che ci ascolta anche di capire, di conoscere per la prima volta questi fatti. Quindi questi aspetti potrebbero essere, oltre che un'angolazione diversa, un valore aggiunto? Ma sicuramente, anche perché una volta all'inizio ci siamo concentrati solo sui fatti della regione, adesso invece vogliamo aprire anche i grandi fatti di cronaca nazionale. Non a caso il primo appuntamento il 6 sarà con il caso di Emanuele Orlandi, che ogni giorno ci riserva delle novità. Sì, infatti ho visto che sono aspetti a livello nazionale, io mi immaginavo qualcosa dove Bologna fosse oltre che un palcoscenico, invece è un aspetto molto esteso. Ma devo dire che per fortuna, diciamo che non è che Bologna ha tanti fatti di cronaca, sì, ma prima o poi finiscono, ecco, e li abbiamo trattati già in modo approfondito. Quindi adesso apriamo anche, perché quello che poi vogliamo fare è raccontare anche altri fatti di cronaca, perché comunque anche se il pubblico bolognese è sicuramente interessato a quello che succede nel nostro paese. E ci sono artisti e attori sul palcoscenico? Ci sono soprattutto, prima di tutto, le persone, anche loro malgrado protagonisti di questi fatti, perché con Emanuele Orlandi abbiamo il fratello ad esempio di Emanuele Orlandi, Pietro Orlandi, e poi sarà accompagnato da artisti, musicisti, attori che leggeranno alcuni brani dei libri, interpreteranno a loro modo anche alcuni brani che fanno parte sia del loro repertorio ma anche dei libri che hanno trattato degli argomenti che noi andiamo a dibattere. Ho parlato col regista di Giostra Film in precedenza e ha sottolineato una sensibilità del pubblico bolognese. Ma il pubblico bolognese per fortuna è sensibile a tutto, perché è sensibile all'arte, alla musica, allo spettacolo, ma anche alla cultura e alla cronaca, quindi si gioca in casa. La ringrazio tanto, le auguro una buona rassegna. Grazie, grazie. Sottolineare questi aspetti tra i protagonisti sul palcoscenico, anche chi ne è coinvolto direttamente. per tutti e tre gli appuntamenti al Breakfast Club vi sarà presentazione. Iniziamo con domani, San Francesco Estate, la rassegna nella rassegna è Bon Noir, e quindi scomparsa il caso Emanuela Orlandi. E poi sottolineare anche l'aspetto di come Bologna Noir ha dato un respiro nazionale a tutto ciò, per cui ottimo lavoro, e ovviamente l'appuntamento è in piazza San Francesco. A tra poco, abbiamo recuperato la puntualità nella pubblicità e torniamo con un last minute in scena. A tra poco.